Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché santo sono io, il Signore Dio vostro. Ognuno di voi abbia riverenza per sua madre e suo padre, e osservate i miei sabati. Io sono il Signore Dio vostro. Non volgetevi verso gli idoli, e non fatevi degli dèi di metallo fuso. Io sono il Signore Dio vostro. Quando offrirete sacrifici di comunione al Signore, offriteli in modo da essere graditi, siano consumati nel giorno in cui li offrite o l'indomani. Quanto resta sia consumato col fuoco il terzo giorno. Se fosse mangiato il terzo giorno, è cibo corrotto e non sarà gradito. Chi ne mangia porterà il peso del suo peccato, perché ha profanato quanto è sacro al Signore. Quella persona sia eliminata dal suo popolo. Quando farete la mietitura della vostra terra, non finirai di mietere i confini del campo e non spigolerai la spigolatura del tuo raccolto. Non racimolerai la tua vigna e non raccoglierai i grappoli caduti della tua vigna. Li lascerai al povero e al residente. Io sono il Signore Dio vostro. Non rubate, non ingannate, non mentitevi l'un l'altro, non giurate il falso nel mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimere il tuo prossimo e non derubarlo. Non resti presso di te la paga dell'operaio fino al mattino seguente. Non maledire il sordo. Davanti al cieco non porre inciampo e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commettere ingiustizia in giudizio. Non aver riguardi per il povero e non fare onore al potente. Con giustizia giudicherai il tuo compatriota. Non sparlerai in mezzo al tuo popolo e non ti presenterai al giudice chiedendo la testa del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore. Correggi francamente il tuo compatriota e non gravarti di un peccato a causa sua. Non vendicarti e non serbare rancore ai figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Osservate le mie leggi. Le tue bestie non le accoppierai tra specie diverse. Nel tuo campo non seminerai specie diverse, né indosserai una veste di tessuti diversi. Se un uomo giace con una donna schiava promessa ad un uomo prima che sia riscattata e che le sia data la libertà, darà un risarcimento, ma non moriranno perché la donna non è libera. Porterà un sacrificio di riparazione al Signore all'ingresso della tenda del convegno, un capro di riparazione. Il sacerdote farà per lui il rito espiatorio con il capro di riparazione davanti al Signore per il peccato che ha compiuto, e il peccato che ha compiuto gli sarà perdonato. Quando arriverete nella terra, qualsiasi albero fruttifero piantiate, ne considererete il frutto come il suo prepuzio. Per 3 anni saranno per voi come incirconcisi, non ne mangerete. Il 4° anno ogni suo frutto sarà sacro. Farete una festa di lode al Signore. Il 5° anno ne mangerete il frutto. Vi è concesso raccoglierne il prodotto. Io sono il Signore Dio vostro. Non mangiate sui monti, non praticate divinazione né incantesimi, non tagliatevi in tondo l'orlo della vostra capigliatura e non rasare l'orlo della tua barba. non vi farete incisioni sulla carne per un morto, e non vi farete tatuaggi. Io sono il Signore. Non profanare tua figlia prostituendola, perché non si prostituisca la terra e non si riempia di oscenità. Osservate i miei sabati e abbiate riverenza per il mio santuario. Io sono il Signore. Non rivolgetevi agli spettri e agli indovini, non interrogateli, rendendovi impuri con essi. Io sono il Signore Dio vostro. Alzati davanti a una testa canuta, onora la presenza dell'anziano e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Se verrà a stabilirsi presso di voi un immigrante, non molestatelo. Come un oriundo tra di voi sarà colui che viene a stabilirsi presso di voi. Lo amerai come te stesso, perché voi siete stati immigranti nella terra d'Egitto. Io sono il Signore Dio vostro. Non commettete iniquità in giudizio nelle misure di lunghezza, di peso e di capacità. Abbiate una bilancia giusta, pesi giusti, un'efa giusta, un in giusto. Io sono il Signore Dio vostro che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Osservate tutte le mie leggi e tutti i miei precetti e metteteli in pratica. Io sono il Signore.